signore e signori, in console c'è Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Acquistai i 45 giri di quel racconto per potermi riascoltare quella storia ogni volta che avrei voluto. SMS al numero 333 64 67 662. Ciao Gigi, vorrei ascoltare Passo Felino e dire a Fede che l'amore non ha età e che mi dispiace che sia così difficile la nostra storia. Al cuor non si comanda. È vero, è vero. 7 aprile, in ogni dove, lento, violento e altre storie, il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora la musica c'è. Quando resto ad ascoltarti, rimango lì a pensarti. Quando vedo il tuo sorriso, ti vedo in ogni viso. Mentre ti sento, non penso a niente. Sei solo lì nella mia mente. Ti voglio bene, Gigi. Carmen. D'Agostino abbraccia armonicamente Daniele Di Vercelli, Carmelo da Brindisi. Caro Gigi, vorrei ascoltare Complex. Un bacio forte da Paola di Matera.

spazio. Alle 2 del pomeriggio suona Gigio. Pota, allora, che dice che la fit, che allora, sa segne. Questo è il cammin di Gigi D'Agost. Pota, questo è il cammin di Gigi D'Agost. Allora, questo è il cammin di Gigi D'Agost. Pota, questo è il cammin. A ragazzi, gariata sul culo. Questo è il cammin di Gigi D'Agost. Pota, questo è il cammin di Gigi D'Agost. Allora, questo è il cammin di Gigi D'Agost. Pota, questo è il cammin. A ragazzi, gariata sul culo. Ecco qua, va. Grazie per i colori che mi doni in questa grigia vita. Prego. Un abbraccio, Gigi. Pota. Da Vanni. E mi piace fes. Scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri SMS è il seguente: 333 64 67 662. Questo è il cammin di Gigi D'Agost. Pota, questo è il cammin di Gigi D'Agost. Allora, questo è il cammin di Gigi D'Agost. Pota, questo è il cammin. Ciao Gigi, voglio dedicare I Have a Dream a Matteo, perché lui è il mio sogno reale. Sabrina. D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Da quando faccio parte di questa magnifica family, la Gigi D'Agostino's Family del forum gigidagostino.com, sono rinato. Mi sento bene, felice. Affronto la giornata in modo più sereno. Grazie ragazzi per quello che mi state facendo provare. E grazie a te Gigi, che hai reso possibile tutto questo. Jack D. Vai G. Gigi? Il cammino è come una cucchiaiata di Nutella dopo 2 ore di puro sesso. Vabbè. Vorrei dire ad Angela che è la mia vita. Marco da Voghera. La conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza è un processo che evolve ininterrottamente. Alla contingenza. De che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che evolve in interrotto. A Fè, che è sempre nei miei pensieri, mi sa che proprio non riesce a capirlo. Ce la puoi fare. Anto da Torino. Sono Vale dalla provincia di Cuneo. Vorrei salutare Angie Pengi. Finalmente è arrivato il momento di viziarci e grazie ad Aprilia oggi è più semplice che mai. Infatti, acquistando uno Sport City 125, 200 o 250 entro il 30 giugno, Aprilia regala il bauletto New Concept da 32 litri e il parabrezza grande. Un'occasione da non perdere per provare l'emozione di uno scooter sportivo, maneggevole e grintoso, ed avere in regalo gli optional per viaggiare ancora più comodi. Aprilia Sport City, il lusso è di serie. Info aprilia.it. Gigi, non ho ben capito cosa intendi dire quando dici altre storie. Non è che me lo puoi ripetere, per favore? Io qua c'ho da suonare anche, non è che posso stare qui tutto il giorno a rigare conchiglioni. Grazie, maestro. Dai un po', Varo. Quando dico altre storie, intendo dire ma è tutto quello che desidero raccontare musicalmente. Tutto quello che desidero, quello, tutto quello che desidero.

Gigi D'Agostino abbraccia armonicamente Marco da Ascoli, Enzo di Salerno, Nicola da Agripoli. Gigi D'Agostino. Paura che si perda. 27 aprile, in ogni dove, lento, violento e altre storie, il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora, la musica c'è. Bacio a Federica di Montecatini. Marco. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Ciao Gigi, vorrei ascoltare Gioco armonico. È un brano spettacolare. Davide da Gerbido. O Gerbido. Torino. Sono Patti da Savona. Volevo salutare il mio amore Leonardo e dirgli che lo amo troppo. Cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Sui muri del cuore, chi balla non muore, fa bene l'amore.